Non è andato a cavallo pazzo Jimbo. Ma io volevo solo fare una considerazione, cioè sull'attualità, la notizia che è uscita in merito a Malpensa, terza pista, non so, mi viene da ridere visto che per non piangere, negli ultimi due anni, no, dai, anche un po' di più, penso ai presidi operai anche, perché sostanzialmente quando parliamo di mobilitazioni, mi viene in mente Nova Ceta che partono con l'occupazione quando ormai è già persa, però comunque sono sempre dei percorsi di crescita. Adesso la Regione Lombardia appena insediata ha dato, non so, subito la prima cosa che hanno fatto, hanno approvato il master plan di Malpensa. A quanto pare anche i morti sono usciti dalle proprie bare e hanno detto difendiamo il nostro territorio, e oggi esce la notizia del Ministero dell'Ambiente che non è sospesa, dice pensiamoci 9 mesi. Poi io non lo so, credo che ho avuto molto freddo quest'anno, ci vuole riscaldamento rotto a casa. Mi viene da pensare però che le lotte te le fanno fare d'inverno, no? Perché è anche più difficile organizzare i presidi e tutto, perché se adesso partiva la cosa su Malpensa ci si stava già organizzando con le varie iniziative a pensare qualcosa. Quindi anche questa cosa qua, che la mobilitazione che dovevamo ancora farla partire e già cercano di fermarla dicendo no, è tutto rimandato tra 9 mesi, quando poi... Cioè, preparare i presidi d'inverno fa più freddo e più sbattimento, se ragioniamo nel pratico. E quindi questa era una cosa. Poi adesso che stavo chiedendo a lui e condivido con voi. Settimana prossima, tra 7 giorni, alla Fagiana, nel centro parco a Fagiana, si ritrovano il consiglio d'amministrazione del Parco del Ticino. Penso che ci ricordiamo tutti come è stato eletto. Se lo vuole spiegare Domenico, che è più bravo di me. Ma io non ho partecipato perché non sono più sindaco. Quindi... No, lo so, però avevi spiegato bene te come era stato eletto per te. Cioè, lo so, te le parole esatte le togli subito, per dire che non è per un cazzo legittimo che... Cioè, scusate. L'hai trovato il tone, però. No, io perdo, perché questa cosa qua poi mi va a mettere in bocca. Fai partire il sangue. Due settimane prima delle elezioni nominano CDA. Vi ricordate il discorso delle leggi a Mazzaparchi, Formigoni che voleva mettere i suoi omini nel consiglio di amministrazione dei parchi, sostanzialmente esautorando le pubbliche amministrazioni di qualsiasi potere di vincolo per la tutela del territorio. E niente, non so, andiamo a salutare questi signori? Appunto, non so, perché sta girando e volevo capire, però mi è arrivata una voce e volevo capire da dove arrivava questa voce. No, si potrebbe chiedere che le amministrazioni dicano no alla terza pista, ad esempio. Potrebbero sì, no, partendo da una cosa semplice, questi sindaci, non i consigli d'amministrazione, sindaci. Quello che mi ha fatto arrivare la voce mi fa, dobbiamo mandarli a casa perché comunque, cioè sono stati nominati 2 settimane prima delle elezioni. Quindi Domenico, mi ricordo che è stato te anche a far presente pubblicamente il fatto che, cioè, cosa vai a fare questa accelerazione di nomina quando poi, cioè, sei in un periodo di vacatio legis, si chiama, no? Sì, quando l'ultimo semestre bianco. Scusate, sì, semestre bianco.